E dopo Elisa con la sua splendida Gift, sentite come sono migliorata nel mio accento. E si dice Gift, vabbè, io ve l'ho detto come si scriveva. Benissimo, passiamo al dibattito, al nostro dibattito interno. Questo è il primo pezzo che vi leggiamo e che si intitola Comunque non ci sto. Non lo chiamerei appello al voto, perché non credo proprio di dover chiamare le donne e le donne lesbiche a fare il loro dovere di cittadine di serie B. Preferisco parlare della mia motivazione al voto. Andrò a votare perché non credo nella non organizzazione. In anni passati ho annullato la scheda elettorale più o meno delusa dalla politica della sinistra. Badate che sinistra, anche se non lo vedete, è tra virgolette. Non so cosa voglia dire essere di sinistra oggi. Per me è importante avere e credere nell'utopia. La mia utopia è costruire un mondo diverso, ma guarda come sono originale, dove non esistano prescrizioni. Un esempio tra i tanti, l'eterosessualità obbligatoria, e poi a seguire sessismo, stupro, razzismo, sfruttamento, guerra, globalizzazione, nuova economia o new economy che dir si voglia. Dove esista armonia invece che sfruttamento del territorio, stravolgimento della natura, dissesto ecologico e inquinamento. Il progresso scientifico e tecnologico può avere un codice che risponda al benessere comune, dove la terra, l'aria, l'acqua, gli esseri viventi godano del rispetto. Un mondo, insomma, dove non abbia cittadinanza l'avidità di pochi contro l'interesse della maggioranza. Ma torniamo alla questione dell'organizzazione. Appellarsi al non voto alla vigilia delle elezioni non cambia l'ordine delle cose. Io credo che la disobbedienza civile sia un'arma idonea a sovvertire l'ordine dato, ma va perseguita con un programma che vede il non voto come conclusione di innumerevoli azioni, per esempio autoriduzione delle tasse e delle bollette, lotta contro le forme di sfruttamento dei vari lavori atipici, per esempio il lavoro nero, il lavoro minorile, il lavoro interinale o in prestito, il lavoro di formazione, denunce alle aziende che inquinano, impegno nella ricerca di fonti di energia alternativa, medicina alternativa, promozione di agricoltura biologica e vigilanza. Vigilanza su tutto quello che passa a livello di educazione e cultura nelle scuole, nei media, nei giornali, nella pubblicità, nel cinema, con la religione e i nuovi e vecchi integralismi, carte che il potere patriarcale dominante sa giocare bene e che hanno provocato e provocano una sorta di sonno da belle addormentate. Insomma, la nascita di una cultura alternativa rispetto a quella dominante che vuole il denaro come valore assoluto. Una cultura altra che faccia riscoprire la voglia di contare attraverso la partecipazione vera e diretta. Per questi motivi andrò a votare e sceglierò le donne e le donne che sono presenti nelle liste del PRC, perché è quello più di sinistra che c'è. Yeah. Questa che state sentendo, che avete sentito, è Angélique Kidjo con un pezzo batonga e un bel ritmo africano. Adesso passiamo alla lettura di un altro pezzo che sta in una posizione che sta al nostro interno come quella di prima, ed è il pezzo di Claudia che si intitola, scusate un momento, L'unica via è l'anarchia. Ah, scusate, e proprio per Claudia manderemo un pezzo di musica che è L'inno dei malfattori. Le idee non invecchiano, né tantomeno muoiono. Anarchia significa senza un superiore, e credo che l'idea anarchica conservi un significato ed una funzione nel mondo odierno, caratterizzato dal potere, maschile ovviamente, accentratore ed usurpatore delle libertà individuali. Oggi il movimento femminista ha perso, purtroppo, tutto il suo impeto. Le donne si sono adagiate su quella parvenza di libertà e di diritto che le ha fatte sentire appagate ed appacificate, vincenti e concilianti. La disinvoltura con cui si fa credere alle donne di essere al centro del potere, perché adesso possono scegliere l'uomo con il quale vivere, rompere il matrimonio, avere o non avere figli, fa parte della stessa superficialità con la quale si guarda la crisi di tutte le istituzioni. In realtà le donne non sono protagoniste e dalle donne non ci si aspetta nulla. Dopo il femminismo, le donne, almeno come gruppo, non si sono mosse in base ad una nuova visione del mondo, non hanno teorizzato o proposto un nuovo modello di società. Sono invece cadute nel facile, tragico inganno che il nuovo modello fosse di per sé la distruzione del vecchio. La società puntella di volta in volta con provvedimenti contingenti, contraddittori, perfino balzani, della magistratura o dei politici, i ruderi del vecchio assetto sessuale, matrimoniale, parentale, sociale. Ma al centro di questi ruderi ci sono le donne. Erano loro il mattone che era stato messo dai maschi a fondamento del palazzo. Tolto il mattone, il palazzo è crollato. Prive di un qualsiasi progetto, di una qualsiasi immagine di sé, le donne vivono alla giornata, come se la libertà e il potere consistessero nel non avere né progetti né mete. Naturalmente bisogna pur vivere. Le donne perciò, in grande maggioranza, collaborano alla routine della società diretta dai maschi, vista la percentuale di candidati donne. Ma, ovviamente, continuano a non detenere nessun vero potere, perché senza idee nuove e forti non si riesce mai ad assumere la leadership. L'idea nuova e forte potrebbe essere mettere in crisi il potere affrontando un compito immane, inventare delle nuove basi per la cultura. E perché non cominciare dall'idea anarchica di distruggere lo Stato e costruire un mondo nuovo sulle sue rovine? La spietata critica del presente è sempre stata la forza degli anarchici, la vaghezza del futuro la principale debolezza del loro movimento. Ma è proprio inimmaginabile nella società attuale, schiava del potere, l'idea di creare una società dove l'istinto dell'assistenza reciproca permetta di creare una varietà di rapporti cooperativi e libertari? Io credo che la strada della consapevolezza e della razionalità possa alla fine risultare vincente. Per iniziare, rifiutiamo quindi il concetto di potere, con i meccanismi ad esso connessi, come abbiamo visto, prerogativa esclusivamente maschile. E non andiamo a votare. La democrazia funziona come ogni altro potere e, malgrado sia definita governo del popolo, permette l'esercizio del potere di pochi su molti. La società civile italiana è quasi del tutto indifesa di fronte ad un potere politico che tradisce nei fatti gli ideali prefissati. I politici sono riusciti a far credere che la gestione dei bisogni di un gruppo costituisca un campo a sé stante del sapere, di cui loro sono gli unici depositari. Se l'idea moderna della politica come scienza autonoma pareva rispondere alla necessità progressiva di desacralizzare il potere, rivelando che non sono i comandamenti divini a regolare il campo di dominio dell'uomo sull'uomo, proprio la sua separatezza ha finito per costituire la sostanza di un nuovo peso opprimente sull'individuo. È utile riflettere sul fatto che proprio a causa della sua sacralità, del suo essere qualcosa di separato dai campi del sapere, che non si fa per la politica, e questo è funzionale ai potenti, quello che si fa continuamente per la scienza. analisi e studio dei difetti del modello per il suo miglioramento. I politici non tengono mai conto dei risultati di chi analizza i problemi. In sostanza, potere democratico significa dominio di una classe ristretta, quella politica, che governa a nome di tutti. E continuando con l'articolo di Claudia, ancora di sottofondo avete sentito per ora Aretha Franklin, e invece di sottofondo ancora mandiamo l'Inno dei Malfattori in onore di Claudia. Allora, i politici, in Italia specialmente, si sono appropriati di tutte le strutture della società, aiutati dalla cecità della maggioranza dei cittadini, che hanno trovato ovvio dipendere dai partiti per ottenere ogni cosa, al posto di lavoro, alla licenza di commercio, eccetera eccetera. I pochi che non si sono piegati sono stati costretti alla rinuncia dei loro diritti in qualsiasi campo, ma senza poter neppure denunciare il tiranno, come hanno fatto gli esuli del fascismo, del nazismo e del comunismo, visto che in apparenza il tiranno non c'era. In realtà una democrazia può diventare anche peggiore di una dittatura, perché si impadronisce della vita dei cittadini a poco, infiltrandosi in tutto ciò che è privato, senza rivelare la propria intrusione, essendo anzi asserendo anzi di operare per il bene di chi viene rappresentato dal potere democratico. I cittadini non si trovano di fronte quindi un tiranno ben definito, ma nelle mani di chi pretende di agire in rappresentanza di chi l'ha eletto. I singoli cittadini sono diventati nulli, perché al loro posto hanno preso corpo i partiti, ed i partiti a loro volta fanno eleggere in Parlamento non i rappresentanti dei cittadini, ma se stessi. La rappresentanza si rivela per questo, per quello che è, un'allucinazione, o meglio una tragica farsa. La democrazia italiana è diventata la più tirannica delle dittature. Gli elettori non possono ritirare il mandato ai rappresentanti, che appena eletti non rappresentano più chi li ha votati, ma gli interessi generali, come astutamente viene affermato dai detentori del potere. Che l'eletto da una categoria ben precisa faccia soltanto gli affari generali è pura teoria, funzionale soltanto ad assumere la totale libertà del parlamentare, non più responsabile verso gli elettori, che non possono più esercitare nessun controllo sull'eletto. Può avvenire che un deputato sia in aperta contrapposizione con il volere di chi lo ha votato, senza che quest'ultimo possa intervenire in alcun modo, tranne che non votandolo all'elezione successiva. Sistema del tutto irrazionale, in quanto non serve ad eliminare i danni già fatti, ma solo ad illudere i cittadini sul proprio potere. Il risultato che si produce alla fine è che il governo del popolo si realizza senza che il popolo governi mai. E nessuno pensi che siano le parole sacre di un Parlamento a limitare il più possibile il proprio potere, sia che governi la destra o la sinistra. Attenzione, la diade, coppia composta da opposti, è una creazione del pensiero tipicamente politico. La politica italiana è organizzata intorno alla diade destra-sinistra e si fonda sul riproporre continuamente questa opposizione. Concludendo, non votate, lottate con tutti i mezzi per abbattere il potere, e in questo momento uno strumento è disertare le urne. Slogan finale: ma quale comunismo, ma che democrazia, l'unica via è l'anarchia. Grazie al contributo di Claudia. E dopo l'intervento di Claudio, che in parte era liberamente tratto dal pensiero di Damagli, veniamo a qualche appuntamento più che altro ludico previsto per il mese di maggio. Il 10 a Bologna al Cassero c'è lo spettacolo di Alessandra Gori. Il Cassero è a Bologna, appunto in piazza di Porta Saragozza 2. Per informazioni 051 6446 902. L'11 maggio a Brescia alle 21 presso la libreria Rinascita in vicolo Calzavelli a 26 Gianna Candolo parlerà su donne e guerre. Informazioni allo 030 45 119. Mentre il 12 a Milano alle 17 al Recycle in via Calabria 5 verrà presentato il libro I monologhi della vagina. A Verona il 12 festa alla discoteca Alter Ego e il 15 alle 21.15 proiezione di Before Night Falls presso Rifondazione Comunista via Frangini 9A. Informazioni 0349 1766 262. Il 17 maggio a Bologna, sempre al Cassero, una mostra collettiva d'arte. Mentre il 18 maggio a Firenze, festa alla FLOG in via Mercati 23B, organizzata dal Circolo Finisterre. Informazioni 055 671 298. Il 19 maggio a Roma, dalle 23 all'Internet Point Trevinet in via Inarcione 103, serata di chat riservata a gay e lesbiche. Informazioni 06 699 22320. Il 19 maggio a Padova, dalle 23 al Joel, in via Paggiola 7, Cittadella, festa per sole donne. Il 24 maggio a Bolzano, ancora una serata lesbo alla discoteca Melody Club, alla Ghetti EGNA, non so, organizzata da Arcilesbica, informazioni 0471 976342. Infine il 25 e il 31 maggio a Bologna, sempre al Cassero, una festa, sia il 25 che il 31 maggio. Questi appuntamenti li abbiamo tratti dal sito della lista lesbica italiana, che è tra i siti autogestiti del server donne www.women.it. Adesso un piccolo problema tecnico. Va la nostra musica lesbica indipendente, mentre Lucilla sta per mettere il CD, diciamo che soprassediamo sulla nostra consueta sigla della musica lesbica indipendente, è Pseudonym. Per la musica lesbica indipendente, Pseudonym. Il pezzo si chiama So Far ed è tratto dal primo CD Fanfaria. Remember your sister who feels she can't talk. Remember your brother who lives around the block. Remember a time when you could not see. I remember a time I could not be me. Compassion is needed with perhaps a little love. Believe in each other, no need to judge. A chosen family will be on this side. When there's so far, there's so far, there's so far from us. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del Coordinamento Lesbiche Romane, in onda tutti i martedì a Radio Onda Rossa, presso ospitata dal Martedì Femminista Autogestito. Vi ricordiamo che potete cercarci in radio se volete, che potete trovarci ogni mercoledì al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B. Il numero di telefono, che è anche fax ed è anche segreteria telefonica, è 06 68 64 201. E noi accettiamo e aspettiamo i vostri contributi. My name is Wendy, and I am calling you from a small town west of nowhere. There's nothing much to do, and I'm alone, and I'm needing your advice. 'Cause I'm ready to... Voto o non voto? Peggio della classica Margherita sull'essere corrisposta in amore. Senza nessuna allusione all'ennesima coalizione politica che vanifica un già contestabile maggioritario, che poi maggioritario non è, introdotto da un referendum per il quale le parti politiche avverse hanno fatto propaganda sulla menzogna, come ormai consuetudine nella vita politica italiana. Voto o non voto? Una parte di me spera che le lesbiche siano attanagliate da questo dubbio, strette in un dualismo che vede da un lato la destra, che dichiara pubblicamente la sua omofobia, e dall'altro la sinistra, che non dichiara pubblicamente la sua avversione all'omofobia. Anzi, scusate, centrodestra e centrosinistra. Ormai non si può nemmeno dire sinistra in santa pace. E già l'aggiungere il prefisso centro ad ogni coalizione la dice lunga sul livello di mediazione che è necessario oggi per fare politica istituzionale. Rispetto all'omofobia, fa eccezione ancora una volta Rifondazione Comunista, che pur senza grossi proclami, quest'anno candida nelle sue liste ben due rappresentanti dichiarate del mondo lesbico, anzi arcilesbico: Francesca Polo, alle comunali di Milano, e Titti De Simone nei collegi dell'Emilia, della Toscana e della Campania. Beh, anche i DS hanno tra le loro fila il solito Grillini. Appunto il solito, la faccia per bene del movimento gay. Anzi, lui è un po' un ex movimentista, visto che delle attività da movimento gay conserva solo una invisa carica onoraria di presidente arcigay. Ma allora, voto o non voto? È innegabile, quando si dice voto, ecco qua, emerge solo delusione, nausea, rabbia. Delusione per quello che la sinistra, pardon, il centro-sinistra, avrebbe dovuto fare in questi 5 anni e non ha fatto. Nausea per quello che invece ha fatto: la guerra, il finanziamento alle scuole private, le connivenze con la Chiesa. Blah. Rabbia perché siamo stufe di essere sempre costrette a scegliere il male minore. A proposito, ma siamo convinte che la sinistra è il male minore? So che tante lesbiche votano a destra, e questo a dir poco mi addolora, anzi mi fa incazzare come una bestia. Ma piantatela, che così ci state rovinando più degli stessi politicanti di sinistra. Se quelli non hanno fatto e non faranno nulla per noi, guardate però come è efficace la destra contro di noi. Guardate Bologna e come ha fatto presto la giunta di destra, votata o direttamente o per puro astensionismo anche dalle donne, a chiudere tutti i posti delle donne, a rescindere i finanziamenti fino ad allora dati alle attività più d'avanguardia. Ma basta, che così diventa un suicidio, non una protesta. Dunque, voto o non voto? Beh, io voto. Perché? Ma dimmi tu perché non voti. No, non è una sfida, è solo che credo che ci troveremo d'accordo su tutte le motivazioni per le quali alcune di voi non voteranno. Però se chiedo ad ognuna di voi, ok, non votare, ma per fermare l'avanzata delle destre, per evitare a me e a te di perdere quel poco di libertà di pensiero e di azione che abbiamo, nell'immediato cosa farai? Beh, allora credo proprio che fatichereste a convincermi che è più utile non votare. Perché in primo luogo ci vuole coerenza per fare una scelta come questa, che mai come oggi può portarci ad un grave e lungo periodo di oscurantismo. Coerenza prima delle elezioni e dopo le elezioni. Quanti di noi, tra quelle che sceglieranno di non votare, fanno attività politica o sociale? Ovvero, quanti di noi, per arrivare a non votare, hanno lottato giorno dopo giorno, nella vita personale ed in quella pubblica, per cambiare davvero il corso delle cose? Per cambiare quella cultura della mediazione che si è insinuata in tutte noi, portando la sinistra a morire per lasciare posto al centro-sinistra. E ci vuole coerenza dopo le elezioni. Io sono pacifista ed abborro le armi, ma l'unica risposta coerente che potrei accettare da te che non voti è: faccio la rivoluzione. Poi però ne sarei molto dispiaciuta, perché comincerei a vedere da subito nei tuoi occhi l'espressione che oggi vedo negli occhi della Faranda e di donne come lei che coraggiosamente, ma dal mio punto di vista anche deprecabilmente, hanno scelto la lotta armata. Hai mai guardato negli occhi queste donne? Provaci. Vi leggerai dolore e soprattutto delusione, perché il popolo che le doveva seguire non le ha seguite, anzi le ha condannate, perché lo Stato è stato troppo forte allora, che era nel pieno della sua debolezza, figurati adesso. Perché prima che dallo Stato, queste donne sono state tradite dall'individualismo che alberga in ognuno di noi e mai come ora alle sue profonde radici nelle masse, che non sono più gli operai, ed attenzione quando mandate i vostri proclami agli indirizzi di 30 anni fa, ma sono il ceto medio, quello che lavora 12 ore al giorno solo per avere una macchina migliore ed in fondo non sa più nemmeno cosa sia la sinistra e la destra, sa solo chi gli dà lo stipendio e chi potrebbe darglielo più alto. Quindi rispondimi che vuoi fare la rivoluzione, ma ti prego non farlo ora, non farti ammazzare o chiudere in un carcere di cui butteranno la chiave. Ho bisogno di te e della tua voglia di lottare, perché alle prossime elezioni non ci sia più il centro-sinistra, ma di nuovo la sinistra, e perché votare non sia più scegliere il male minore, ma dare l'Italia in mano a qualcuno in cui crediamo, per qualcosa in cui crediamo. Credimi, riuscire in questo sarà ancora più difficile del fare una rivoluzione. I'm so far from crying. Allora, vi è piaciuto questo pezzo di Sue Dimin? Noi speriamo di sì, perché è andato ancora. Vogliamo sapere se l'avete capito bene, perché a noi ci è piaciuto molto e c'è stato anche un piccolo errore tecnico. Vabbè, comunque diciamo che ci è piaciuto. Cioè, non togliendo il repeat poteva andare avanti anche per 3 giorni lo stesso. Ecco, comunque capita, con la diretta capitano queste cose. Allora, questa trasmissione, come non vi abbiamo detto all'inizio, ve lo diciamo adesso, non andrà in replica. La prossima settimana andrà in onda una nuova trasmissione e ricominceremo ad affrontare i problemi più generali, come la prossima settimana sarà quello sul lavoro. Allora, ci sentiamo il prossimo martedì, noi saremo qui. Ancora una volta vi invitiamo, se ne avete voglia, a farvi sentire in tutti i modi, per telefono o mandandoci messaggi di qualsiasi genere. E per il momento, arrivederci. Ciao da Deborah e da Lucilla. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah.